not my middle name when it comes to the Abbiamo recuperato un po' il ritardo mattiniero di questa vigilia di weekend 6 ottobre 2023, tornando in diretta andiamo a teatro, Teatri di Vita, a Bologna con lo spettacolo Nakba di Enrico Frattaroli che è qua al telefono con noi. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a voi, buongiorno. Quindi abbiamo conosciuto una grande donna e la storia di Lucrezia, ora ci avviciniamo ai giorni nostri. Ed è un'altra storia. La voce di Lou Rhodes intanto ci sta tenendo compagnia. Lo spettacolo è Nakba, che ha una traduzione che è catastrofe, il grande punto di svolta della storia della Palestina e del Medio Oriente, quando nel 1948 la creazione dello Stato di Israele ha portato migliaia di palestinesi ad abbandonare le proprie case, le città, le terre, per essere poi rinchiusi fuggiaschi nei campi profughi. Questa Nakba, Enrico Frattaroli, come è stata riportata poi in narrazione teatrale? A te la parola. Ma attraverso un testo fondamentale di Mohammed Al-Kaisi, che è uno scrittore bambino all'epoca della Nakba, nel 48 lui aveva 4 anni e quindi ha vissuto da quattrenne praticamente questa catastrofe, attraverso la madre, sentendo reazioni che lui in quel momento non riusciva a capire, eventi che erano lontani da lui e che lui subiva. Quindi, diventato scrittore, recupera questa memoria scavando nell'oblio e quindi raccontando la Nakba attraverso la sensibilità e i processi di un bambino. Quindi un punto di vista molto, molto singolare, ma condiviso, devo dire, da molti palestinesi, che si chiamano infatti i bimbi della Nakba, cioè tutti coloro che erano bambini in quell'epoca, quindi l'hanno vissuta in questo modo. Il testo è un testo fortemente poetico, Al-Kaisi è essenzialmente un poeta, e il modo in cui ho lavorato è stato proprio quello poetico. I palestinesi sono una popolazione molto poetica, essenzialmente poetica, per loro la poesia e la politica sono la stessa cosa. Qualche giorno fa c'è stata una manifestazione, un festival, Falastin, a Roma, in cui ci sono state 2 ore di letture poetiche di poeti arabi e poeti italiani che leggevano e in arabo e in italiano. Ecco, una cosa che da noi sarebbe molto difficile. Infatti pensiamo a questa nobiltà e l'importanza sia dell'arte, la scrittura in poesia, allo stesso tempo la società e come viene avvicinata attraverso questo motivo di dialogo. È un motivo ulteriore, oltre che di crescita culturale, anche per avvicinare la società, per conoscere e per non dimenticare. L'importanza di un altro aspetto che mi ha colpito molto è per quanto riguarda la grafia, la calligrafia. La calligrafia è bella, sì. Di solito dico grafia perché grafia è la scrittura, lo scrivere, no? Quando si dice calligrafia è la bella scrittura. È la bella calligrafia dal greco, appunto. Esattamente, dall'etimo greco. In che modo vi è importanza per questa bella grafia? È stato importante perché io volevo un filtro attraverso il quale poter raggiungere quegli eventi e quelle immagini. Per loro la calligrafia è anche essenzialmente immagine, per questo io ho fatto un corso di calligrafia araba con un iracheno che vive a Roma, Amjad Rifai, e ho voluto capire in che modo funzionava questa scrittura, in che modo fosse scrivibile, e quindi ho fatto questo corso che per me è stato importantissimo. La calligrafia, sono tutti i titoli dei 20 calligrammi sono scritti in arabo è in italiano con questa calligrafia, ma poi questa calligrafia si muove all'interno dell'immagine video, quindi si mescola alle immagini, essendo questa stessa immagine. Per dire, se c'è l'immagine di una bambina, si chiama Zakia, la parola Zakia gira intorno a lei, si fonde con lei, perché è essa stessa, il nome è l'immagine anche. Prende quindi, la motilità. Per me è stata fondamentale per me, perché è continua, questa calligrafia presenta costantemente ed è il filtro, sì, diciamo la retina attraverso la quale possiamo entrare nelle immagini, può essere nera, può essere bianca, può essere vuota, può far trasparire l'immagine, però è sempre all'interno dell'immagine. E consideriamo che l'immagine in questo caso è anche insieme alla musica, e la musica insieme al testo, cioè questo lavoro è una sorta di partitura praticamente, in cui questi elementi sono messi in contrappunto, sia la parte visiva che la parte grafica, che la parte testuale, la parte di luce, e anche diciamo il teatro, che in qualche modo non è semplicemente il contenitore di tutto questo, ma aggiunge una sua esatta dimensione. Una dimensione che qui a Teatro di Vita, per esempio, si è modificata proprio in base allo spazio, che diventa un coprotagonista del lavoro. Diventa tutto ciò. E quindi, a proposito di un aspetto che volevo portare, tu hai già citato, che è quello musicale, ci sarà la musica del trio Joubran. Ecco, dei quali io ho selezionato un brano che... Puoi restare un pochettino in diretta, che ascoltiamo due minuti? Sì, ascoltiamolo, poi sì. Torniamo esatto. Con la nostra conversazione. Grazie. Sì, Enrico, certo, grazie. Certo. Thank you. queste circolarità, si direbbero dei groove, chiaramente con scala araba, hanno una reiterazione tipo da dervisci che ogni volta nella circolarità aggiungono, pur rimanendo fedeli, sempre qualcosa. Questa è l'emozione che almeno mi ha portato nell'immediato il brano che stiamo ascoltando del trio Jubran, che appunto per quanto riguarda lo spettacolo Nakba sarà presente a Teatri di Vita fino all'8, quindi a domenica 8 ottobre. E un svelo, un dietro le quinte, un fuori onda con Enrico Frattaroli che è qua al telefono con noi, confermi che queste sonorità saranno inserite? Hai detto questo brano lasciamelo ascoltare perché questo brano sarà inserito nello spettacolo. Questo brano è nello spettacolo, okay. ed è il brano sotteso al tema dell'Intifada, in cui Al-Qaisi cita delle parole, uno scritto di Jabra Ibrahim Jabra, proprio per il secondo anniversario dell'Intifada, che disse appunto questo, in modo veemente, questo discorso sull'invincibilità del palestinese. Ed è sottesa tutta questa parte musicale, uno dei pezzi forti, diciamo, più intensi. Del lavoro. Sento che è un crescendo molto molto incisivo. Allora qualche indicazione, poi ti lascio la parola per le ultime battute, scusa Enrico. Allora sabato alle ore 20, quindi 20. Domani, e invece domenica alle ore 17. Ecco, questo esatto. Ci tenevo per dare, ovviamente sul sito di Teatri di Vita, perché Verbo Volant, sappiamo bene com'è un attimo poi ritrovarsi in maniera, a meno che il digitale ci venga in aiuto in questa circostanza. Io amo la grafia, e c'era uno speciale sul la Domenica del Sole 24 Ore, prima pagina, sull'importanza dello scrivere e come stiamo perdendo un po' tutto ciò per ovvi motivi che non sto nuovamente a elencare. Mentre invece, oltre che i contenuti storici e importantissimi che abbiamo elencato in precedenza, vi è anche l'aspetto legato alla narrazione poetica, alla musica, oltre che il teatro, che giustamente Enrico ha portato come valore aggiunto in un spettacolo che dà motilità, dà intensità e dà importanza a quella che è stata la Nakba. Abbiamo detto tutto, vogliamo aggiungere qualcosa, Enrico? Dipende dalla tua curiosità, devo dire, ci sarebbero molte cose da dire in realtà. Allora, per quanto riguarda la mia curiosità, collaborazioni. Collaborazioni se ne sono state diverse, infatti questo è un lavoro che è totalmente fatto da me, come tutti quanti i miei lavori, sì. Perché io curo le elaborazioni musicali, visive, grafiche, testuali, eccetera. Però in questo caso mi sono avvalso, per esempio, abbiamo utilizzato la musica del trio Jubran, che è un trio di oud palestinesi, sono tre fratelli. Per esempio le parti in arabo, perché nello spettacolo ci sono delle parti in arabo che vengono tradotte, diciamo, si mischiano con la loro traduzione, e altre invece no, sono soltanto in arabo. Per me è stato un omaggio praticamente agli arabi, a questa lingua, qualcosa che solo loro possono capire e di cui noi ascoltiamo il suono. Bene. Naturalmente per me il suono della lingua è fondamentale, certo. È musica, no? È musica. Sì. E mi sono avvalso per esempio della collaborazione di un'attrice palestinese che io non ho mai conosciuto personalmente, perché ne ho conosciuto la figlia che mi ha indirizzato a lei, che canta i canti Mawawil, sono canti antichissimi, e che mi ha inviato la recitazione in arabo di questi segmenti. Ecco, Samia Bakri è importante per questo, sì. Ma c'è stata anche altre collaborazioni, per esempio un ragazzo palestinese dei campi profughi libanesi di Burj Hashemali, che si chiama Mohammed Al-Zamel, che mi ha mandato invece tutte le parti in flauto, sono le sue, ed è un palestinese che abbiamo aiutato a laurearsi a Torino in meccatronica, e si è laureato, adesso abita in Italia, sposato in Italia, e mi ha inviato questi segmenti di flauto. Ecco, però diciamo, ci tengo, no, a dire che è un lavoro che è tutto mio, però sento anche che è loro. Sì. è importante che non sia soltanto, che non sia soltanto mio, ma l'aiuto, che so, di molti altri che naturalmente nell'arabo sono stati fondamentali. Amjad Rifai, il mio appunto maestro di calligrafia, che comunque ha scritto tutte le parti calligrafiche. Sì. E gli interventi sono... in audio dal soprano Patrizia Polia e dal basso Federico. Sì, Patrizia Polia, sì, sì, anche loro sono invece, ecco, Patrizia è una mia collaboratrice da sempre, è la voce per antonomasia soprano di tutti quanti i miei lavori. Quando ho cominciato a lavorare a Naco, ti dico: guarda, questa volta tu non ci sarai, perché non c'entri niente con i canti arabi e così via. Poi, avendo utilizzato dei brani come quelli che hai fatto ascoltare prima, che sono brani classici, diciamo, del trio Joubran, ma loro hanno fatto anche, hanno scritto la colonna sonora di un film francese, Les Derniers Vols, che da cui ho attinto molto, per esempio. Certo. È un tipo di musica che va al di là del trio di Oud, perché utilizza anche altri strumenti, voci, la voce di un tunisino, ecco, diciamo, è una cosa molto molto ampia, da molto ampia e articolata, sono... sì. Visto, hai soddisfatto la mia curiosità. Benissimo. E ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. E sarà fino all'8 ottobre NACBA Enrico Frattaroli, Teatri di Vita. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata, Enrico. Ringrazio voi, buona giornata. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Siamo giunti al termine, ricca puntata in scena anche oggi con il Last Minute, per domani con il Crap di Radio Città Fujiko, poi l'appuntamento al Cinema Odeon con Marco Melluso e Diego Schiavo. Il teatro ufficialmente porta a termine il nostro Breakfast Club. Io vi auguro un buonissimo weekend, ci sentiamo puntuali lunedì per chi vuole il Jazz Live dalle 11.30. Grazie per l'attenzione, una buona vigilia di weekend per adesso e un buon ascolto sulle nostre frequenze dal vostro William Piana. Ciao a tutti, ciao a tutti.